Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, giornata, alcuni dicono, di realizzi, ossia di vendite dopo i guadagni delle ultime settimane in borsa. Altri dicono che invece sotto pressione vi sono soprattutto alcuni settori. Insomma, il risultato è che la borsa perde il 3,7% sul MIB, il 4% sull'S&P MIB, Parigi meno 4%, Francoforte meno 4,1%, Londra meno 3%, l'America meno 2,8%, sul Dow Jones meno 3,4% sul Nasdaq. La notizia, o meglio la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, però oggi si concentra di nuovo, direi, sulle dichiarazioni e sulle letture di una crisi che nella parte più pesante è finita. Non solo le dichiarazioni di ieri del ministro Tremonti, ospite di Lucia Annunziata, ma anche oggi la presidente di Confindustria Marcegaglia. Il peggio è alle spalle, che non significa che siano tutte rose e fiori, anzi, ma che sicuramente, stando alle previsioni, ai dati, ai segnali che arrivano, la parte più bassa della crisi, il punto più basso, dovrebbe essere stato toccato ed essere appunto alle nostre spalle. Parleremo poi anche di Alitalia, o meglio degli obbligazionisti di Alitalia. Sono 40.000, hanno comprato i Mengozzi Bond, come si chiamavano a suo tempo, e c'è stata una riunione oggi a cui il Tesoro non ha partecipato, per cui non si è raggiunto il quorum, il numero legale. Ma insomma, l'intenzione di un gruppo di obbligazionisti capitanati dalla società di gestione Anima SGR è di fare un ricorso alla Consob su un insieme di motivi: la mancanza di un prospetto informativo, il diverso trattamento per gli obbligazionisti. Infatti chi ha avuto e ha comprato, queste 40.000 persone in Italia che hanno comprato obbligazioni in Italia, vedranno ottenere il 30% di quanto investito, 32 per essere precisi, fino a un massimo di 100.000 euro. Quindi se uno avesse investito 1 milione di euro, avrebbe comunque un massimo di 100.000 euro, che a quel punto significherebbe il 10%, e questo è l'altro motivo di grande tensione. Per quello che riguarda poi le altre notizie della giornata, oltre alla borsa e all'andamento dell'economia italiana, ma non solo, segnalo che oggi è uscita anche l'ultimo dato, l'ultima trimestrale di una banca americana molto attesa, la Bank of America. È tornata in utile a 4 miliardi e 200 milioni di dollari, battendo la stima degli analisti, tant'è che l'utile per azione corrisponde a 44 centesimi di dollaro, gli analisti si attendevano 7 centesimi. Questo grazie a un insieme di attività di trading di Merrill Lynch, che se l'è rilevata. Io ricordo infatti che Merrill Lynch ha salvato Bank of America dalla bancarotta, visto che ha avuto perdite per 40 miliardi e aiuti pubblici per 45, però qualche notizia negativa arriva proprio dai vertici di Bank of America, che nella persona dell'amministratore delegato Kenneth Lewis hanno detto oggi: attenzione, la situazione del mercato del credito è destinata a peggiorare, con perdite in aumento nei prossimi mesi, nonostante, ripeto, un ritorno all'utile per ciò che resta della Bank of America. 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre in apertura del programma, le notizie in breve. Abbiamo dato le borse ma non i titoli, ci fate notare. Allora, i peggiori resti Microelectronics in questo momento meno 8,1%, Bulgari meno 7%, Mediobanca meno 6,5%, Telecom meno 5,5% come il Monte dei Paschi, Mediolanum meno 5,2% come Intesa, il 5% lo perde anche Tenaris. Di positivo invece, ed è un bancario quindi desta ancora più interesse, è il Banco Popolare più 1,9%, poi le CIR mezzo punto percentuale di rialzo. Euro sotto quota 1,30 nei confronti del dollaro, 1,29,3. Petrolio che è sotto i 50 dollari a 47,2 dollari al barile. le notizie che arrivano dai mercati: Oracle ha siglato l'accordo per comprare Sun Microsystems pagandola 7 miliardi e mezzo, quasi 7 miliardi e 400 milioni di dollari, ossia 9,50 dollari per azione, e pagherà in contanti Oracle. Tra l'altro, alcuni di voi lo ricorderanno, ma insomma è una delle società mito della Silicon Valley. La Sun Microsystems produce software e semiconduttori e ha un giro d'affari di 14 miliardi di dollari, ne capitalizza circa 5. E l'OPA, l'offerta pubblica di Oracle su Sun Microsystems, ha fatto schizzare letteralmente il titolo in borsa. Sun Microsystems è arrivato a guadagnare il 35%. Vicenda Fiat Chrysler. Allora, nel frattempo Fiat, pur perdendo oggi, perde molto meno del resto del mercato, meno 1,8%. Di nuovo Sergio Marchion è volato questa mattina verso gli Stati Uniti, terzo viaggio oltreoceano in meno di un mese, anche perché i tempi a questo punto si fanno stretti, 10 giorni scarsi per la scadenza infatti del 30 aprile fissata dal presidente Barack Obama per concludere l'accordo con Fiat e quindi ottenere, per quello che riguarda Chrysler, almeno i 6 miliardi di dollari promessi dall'amministrazione Obama. Terzo viaggio, dicevamo, per Marchionne. L'obiettivo è proseguire i colloqui per definire tutti i tasselli che ancora mancano, soprattutto oltre all'accordo finale, i dettagli dell'accordo tra i due costruttori, il ruolo dei sindacati e anche il ruolo del governo in questo accordo. E sempre sul fronte auto, oggi si è saputo, o meglio lo scrive il Financial Times, che General Motors sarebbe pronta a dismettere, a vendere gratuitamente la sua quota di controllo in Opel, Opel Vauxhall, a patto che l'acquirente si impegni a investire 500 milioni di euro nella nuova società, soldi che non finirebbero in General Motors, finirebbero nella nuova Opel. Buone notizie per il gruppo Finmeccanica, visto che gli Stati Uniti oggi hanno ordinato 7 aerei da trasporto tattico C-27J, il cosiddetto Spartan, è un aereo di medio dimensione, medio raggio per il trasporto truppe, per un valore di 203 milioni di dollari nell'ambito di un contratto per un totale di 78 velivoli. Cambiamo decisamente tema, si è concluso oggi a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, la 3 giorni del G8 agricolo che ha riunito i ministri dell'agricoltura di Italia, Francia, Germania, Canada, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Russia. Una riunione allargata però anche al gruppo dei cosiddetti G5, ossia Cina, India, Brasile, Sudafrica e Argentina, più altri organismi tra cui il FAO, la Banca Mondiale. Si è arrivati a un documento condiviso e finale, l'impegno a raggiungere una bilanciata comprensiva e ambiziosa, leggo testualmente, conclusione del Doha Round, del vertice di Doha, ma in sostanza si è affermato il principio di sostenere i benefici della globalizzazione e dei mercati aperti, evitando il protezionismo in campo agricolo e incoraggiando lo sviluppo di mercati agricoli integrati a livello locale, regionale e internazionale. Soddisfatto il ministro delle politiche agricole Luca Zaia, che ha detto: nel documento sono toccati tutti i punti più importanti. I temi toccati sono i temi della volatilità dei prezzi. La volatilità dei prezzi dipende da molti fattori. Il primo è quello della indisponibilità del cibo nel mondo. La FAO ricorda che per sfamare i 6 miliardi di cittadini nel mondo bisognerebbe raddoppiare la produzione agricola. Questa volatilità di prezzi data dal fatto di avere poco cibo sui mercati, e quindi la discussione ha avuto come oggetto questo, ma anche la necessità di sottolineare l'effetto della speculazione sui mercati. Quindi l'effetto negativo della speculazione negativa sui mercati, che spesso crea condizioni non compatibili con i mercati in un contesto nel quale c'è assenza di cibo, mettendo ovviamente in gravi difficoltà i produttori agricoli e ovviamente i consumatori. Abbiamo parlato dell'applicazione degli accordi di Doha. In questo documento troverete un riconoscimento verso la visione del mercato libero, del mercato accessibile a tutti, ma troverete anche una sottolineatura rispetto alla concorrenza sleale che non si deve creare, ovvero la necessità di non costringere i nostri agricoltori, parlo degli agricoltori delle economie più all'avanguardia a confrontarsi molto spesso con regole che li portano a contesti di concorrenza sleale. Questo è anche un riconoscimento rispetto alla sicurezza alimentare. Forse potremmo liquidare con uno slogan: la qualità non è un lusso, ma deve essere uno standard per tutti. Così il ministro delle politiche agricole Luca Zaia. Mi correggo, forse ho confuso i termini. Chiaramente è Bank of America che ha salvato Merrill Lynch dalla bancarotta e ne ha assunto il controllo. Ecco perché il miglioramento, diciamo, nei conti di Bank of America è dovuto all'attività di trading di Merrill Lynch. Se ho invertito i termini, chiedo scusa. Andiamo avanti con le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria prima di passare al tema di apertura. Oggi sul Sole 24 Ore vi segnalo, ne hanno parlato anche i nostri GR questa mattina, ma vi segnalo una notizia quanto mai interessante, perché la Guardia di Finanza ha scovato nel 2008 5 miliardi e 300 milioni di euro di imponibili non dichiarati relativamente ad attività all'estero. Insomma, in sostanza questi 5 miliardi e 300 milioni sono tre volte la somma scovata dalla Guardia di Finanza come evasione estera nel 2007. Tra l'altro questo si è ottenuto, questo tipo di evasione era possibile grazie a finte residenze in paesi a fiscalità agevolata, oppure estero vestizioni di società che in realtà sono di fatto e a tutti gli effetti italiane. Sono questi strumenti complessivamente hanno portato la Guardia di Finanza a scoprire 5 miliardi e 300 milioni di euro, con un bottino che negli ultimi tre anni, come ha calcolato oggi sempre il Sole 24 Ore del lunedì, arriva a superare i 10 miliardi di euro. Vedo già molte domande sugli obbligazionisti, su queste 40.000 persone, società, diciamo così, soggetti giuridici o fisici che hanno le obbligazioni all'Italia. Vi chiedo un po' di pazienza, ne parleremo nella seconda ora del programma. Oggi Focus Economia infatti torna nella sua versione normale, quindi termineremo la diretta alle 18.30. Partiamo con il primo tema e mi riferisco a continui segnali e a questo punto anche dichiarazioni ufficiali che la crisi economica sia una svolta, che il peggio sia alle nostre spalle, quindi il fondo sia stato già toccato. Eh sì, perché oggi è stata la volta anche della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che parlando oggi a margine dell'Assemblea degli Industriali di Cremona ha detto non c'è più la caduta continua degli ordini e del fatturato a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi. Il peggio dovrebbe essere, l'impressione è che il peggio sia alle nostre spalle, e da luglio ci possono essere, possono arrivare i primi segnali di una ripresa. Ma dopo un paio di settimane in cui molti commentatori, economisti già si erano spinti a dire potremmo essere al giro di boa, e la borsa nelle ultime tre settimane aveva dato segnali in tal senso, ieri diciamo il crisma, il livello ufficiale, istituzionale su questo tipo di analisi l'aveva messo e l'ha messo, come avete letto oggi su molti giornali, il ministro Tremonti, che nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata in mezz'ora su Rai 3 è stato molto esplicito a partire dalla parte, scusate gioco di parole, dalla parte finanziaria di questa crisi. La mia impressione è che la causa della crisi, la causa prima della crisi o la prima delle cause della crisi, la borsa e le finanze, quel rischio si sta fortemente riducendo. In America nessuno più pensa a un'apocalisse finanziaria, a un fallimento globale, perché sono intervenuti i governi, e lo stesso è nell'est Europa e nell'est asiatico. Quindi la paura di un crollo delle borse e della finanza mi sembra finita, e la gente ha, come dire, tirato un po' un respiro di sollievo, perché è finito l'incubo degli incubi. È finito l'incubo degli incubi, così ieri il ministro dell'economia Tremonti, per quello che riguarda, l'avete sentito, la parte più finanziaria, quindi borsa e mercati. Per quello che riguarda invece la parte economica della crisi, quindi l'andamento poi dell'economia cosiddetta reale, anche lì segnali positivi, ha detto Tremonti, ma con un alto livello di incertezza. Abbiamo avuto una caduta del traffico mondiale, dell'import, dell'export e quindi della ricchezza che si produce in tutti i paesi, sì, perché ormai il mondo è tutto collegato, non c'è un paese che non fa insieme importazioni, certo, e esportazioni, più o meno tutti lo fanno. È caduto molto, in base ai dati che abbiamo quella caduta si sta fermando. Sì. I traffici nei porti, nelle strade, i comportamenti di vita e tanti altri indicatori sono nel senso che è finita la caduta dell'import e dell'export, però fondamentalmente siamo ancora in una situazione di incognita, e questo te lo dicono tutti i colleghi di governo di tutto il mondo. Quindi, due fronti, quello finanziario, l'andamento dei corsi di borsa, dei corsi azionari, come si chiamano in gergo, ma anche la capacità di tenuta delle banche americane. Veniamo da una settimana di trimestrali, abbiamo appena ricordato Bank of America, ma io vi ricordo, poi abbiamo preparato anche una scheda su questo, ma insomma nella settimana che si è chiusa è uscita JP Morgan in utile, Goldman Sachs con utile, Wells Fargo con 3 miliardi di utile, Citigroup con utili per 1,6 miliardi, tutti dati migliori delle attese. E poi la parte economica. Oggi, dicevo, la Presidente Confindustria Emma Cegaglia ha detto anche dai dati che vengono elaborati dal centro studi di Confindustria, a luglio dovrebbe esserci un'inversione di tendenze. Allora con piacere riospitiamo chi lo dirige, il centro studi di Confindustria, ossia Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Diventa una specie di bollettino per naviganti parlare con te, Luca, dell'andamento congiunturale. Già ci avevi raccontato un paio di settimane fa come i dati che stanno uscendo, mi riferisco alla produzione industriale, gli ordinativi di febbraio, sono bruttissimi, meno 23% rispetto all'anno prima, ma sono vecchi. La cosa più importante è guardare il mese su mese, non l'anno su anno. Vorrei capire in primo luogo quali siano questi segnali positivi. Il petrolio resta sotto i $50 ed è sicuramente un segnale positivo, ma voi citavate nel rapporto Flash del Centro Studi Confindustria anche segnali sul manifatturiero in Cina, sulle vendite a dettaglio in America, se ce li puoi ricordare brevemente. Sì, prima di ricordarli lasciami fare una battuta sul bollettino ai naviganti, perché le poche volte che l'ho ascoltato parlava anche di tempesta nel Mar di Marmara, non mai avrei voluto essere in mezzo. Ecco, battuta a parte, gli indicatori sono un po' quelli che tu hai ricordato, sono sparsi, nel senso che non c'è un'univoca indicazione di svolta, altrimenti parleremo di svolta già avvenuta e di ripresa già cominciata nell'economia mondiale nel suo insieme. Viceversa, dobbiamo segnalare macchie di ripresa, di recupero in alcuni settori, mercati. Parliamo per esempio negli Stati Uniti, le vendite a dettaglio a gennaio, febbraio sono andate bene, poi hanno avuto un ripiegamento a marzo, considerandole al netto delle auto, ben inteso. Se guardiamo il mercato dell'auto, sia negli Stati Uniti dove non ci sono ancora incentivi, ma verranno varati incentivi agli acquisti di automobili, c'è stato un recupero negli ultimi due mesi rispetto al minimi toccato a gennaio. In Eurozona c'è stato un aumento di vendite, di matricolazioni significativo, in particolare all'interno della Germania e dell'Italia. In Germania gli incentivi sono cominciati a metà gennaio, in Italia di fatto sono diventati operativi in marzo. Parliamo per esempio di altri indicatori sempre in America, molti segnali di stabilizzazione seppure a livelli infimi nel mercato immobiliare, da cui la crisi, ricordiamo, è partita. anche se i prezzi continuano a scendere, ma proprio perché i prezzi sono scesi e sono bassi, cominciano a esserci acquisti e le famiglie cominciano a approfittare dei bassi tassi di interesse per rifinanziarsi, il che significa che il credito c'è, funziona, i provvedimenti assunti dalla Fed in questi mercati stanno creando incentivo, stanno creando erogazione di credito, sia diciamo per rifinanziarsi, dicevo, sia per acquistare case, sono mutui diciamo per comprare un'abitazione, non solo per rinegoziare il mutuo precedente. Negli Stati Uniti c'è stato un aumento significativo degli ordini di beni durevoli. Se spostiamo l'orizzonte, in Cina la ripresa è già in atto, lì è veramente cominciata. Lo vediamo dalle esportazioni che in un mese sono salite del 7%, lo vediamo da produzione industriale con un aumento consistente sul mese precedente a marzo, lo vediamo dall'indice PMI che è in netto terreno espansivo, lì c'è stata una ripresa a V proprio. Se ci spostiamo nell'area euro, qui i segnali sono meno univoci, meno uniformi, e temo che questa sarà l'economia che ripartirà per ultima più lentamente. Allora, tu hai fatto, a mio avviso in maniera molto corretta, riferimento a cose molto concrete. Lo dico perché, al di là delle grandi analisi, poi quando, devo dire anche il ministro Tremonti, uno va a citare il traffico merci, il numero di cargo e di mercantili che attraccano, ricorderete tutti le immagini nei porti principali a livello mondiale dei mercantili che stavano al largo perché non riuscivano a trovare un prezzo adeguato per scaricare le merci. Sono segnali molto più interessanti di tante analisi. Voi nel vostro rapporto, Luca Paolazzi, citavate anche il Baltic Dry Index, che uno dice che cos'è. Beh, è l'indice che dà l'andamento alle materie prime, il commercio delle materie prime, ed è risalito sopra 2000 punti. Ci sono tantissimi, anche i prezzi delle materie prime complessivamente per quello che riguarda la domanda cinese sono risaliti, e tu citavi giustamente la Cina. Io leggo in maniera molto più prosaica alcuni sms che arrivano. Il nolo di un mercantile era passato da $250,000 al giorno a 5,000 a ottobre-novembre, adesso il nolo è risalito a 13,000. Siamo ancora distanti dai 250,000, ma siamo al doppio, quasi il triplo rispetto al periodo ottobre-novembre. Altri che segnalano l'aumento del traffico dei camion, insomma, qualche segnale proprio concreto di economia reale c'è. Dopo il metodo e la pubblicità, vorrei capire, ammesso e non concesso che tutto questo poi venga, si strutturi e prenda la forma di una vera fine della crisi, che cosa secondo te ha contribuito di più? Perché vedo già molti messaggi che dicono: ma come, avete detto che questa crisi era la peggiore degli ultimi 30 anni, che si rischiava il 29, eh? E poi alla fine, se questa è la situazione, il quadro è una crisi che nella parte sua più pesante è durata da settembre a maggio, giugno, e avete fatto tutto questo allarmismo per nulla, a mio avviso confondendo la temperatura della febbre con la durata della febbre. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Luca Paolazzi, detto, ammesso e non concesso che veramente la parte peggiore della crisi sia alle nostre spalle, i segnali ci sono, internazionali, tu giustamente ricordavi più che l'Europa la domanda di materie prime in Cina, l'indice complessivamente delle materie prime, il traffico e il commercio mondiale. L'obiezione più forte che arriva è: ma insomma, avete detto fino all'altro ieri che questa era la crisi peggiore degli ultimi 30 anni, adesso scopriamo che è durata 7-8 mesi, da una parte. Dall'altra, ma siete sicuri che tutta questa piccola, questi segnali positivi non siano frutto di un'economia drogata da tassi bassi, da denaro che non costa nulla, da banche centrali che hanno messo in piedi una rete di protezione da migliaia di miliardi di dollari, e che quando questa verrà meno non si tornerà nelle difficoltà? Da dove cominciamo? Beh, allora, con ordine. Anzitutto la ripresa deve ancora concretizzarsi. Noi stiamo dicendo che rispetto a una fase di segni univoci negativi in un crescendo sempre più pesante, stiamo invece entrando, siamo entrati in una fase di segni misti e quindi quella fase che precede in un certo qual modo la ripresa, ma ancora nella ripresa non ci siamo, quindi fuori dalla crisi non siamo usciti. Secondo, francamente più che protestare perché forse incrociamo le dita, ci abbiamo messo diciamo la faccia, ma insomma incrociamo le dita, si realizzerà la ripresa nella seconda metà di quest'anno, io festeggerei quando questa ripresa si concretizzerà, perché significa tanti posti di lavoro salvati, tante imprese che non falliscono, benessere che si comincia a diffondersi seppur lentamente, quindi non protesterei. E in terzo luogo, forse proprio perché ci si è preparati al peggio in termini di politiche economiche, che si riesce a uscire prima e con meno danni da questa crisi, che rimane comunque, anche se dovesse finire domani, ripeto domani, non nella seconda metà di quest'anno, la più grave del secondo dopoguerra, quindi per caduta del commercio internazionale, per contrazione dei PIL, per caduta delle borse, non ha precedenti nel dopoguerra questa crisi, e quindi rimane in ogni caso grave. E se diciamo non avessimo detto è una crisi grave, i governi non sarebbero intervenuti, peraltro velocemente considerati i loro tempi, che sono i tempi della politica, lentamente se consideriamo i tempi dell'economia, con interventi massicci di rilancio, con tagli di tassi di interesse, con iniezioni di liquidità. Tolte queste iniezioni, cosa resterà? Torneremo a sedersi? Consideriamo due aspetti. Sicuramente è vero che alcuni aggiustamenti strutturali dovranno proseguire, dovranno andare avanti, e parliamo per esempio dell'aumento del tasso di risparmio dei consumatori americani e l'aggiustamento dei mercati immobiliari, che in Europa è appena cominciato. E entrambe queste cose funzioneranno da freno alla ripresa, quindi proprio per questo non possiamo immaginarci un nuovo boom. D'altra parte altri mercati, appunto quegli emergenti, torneranno a crescere, credo, a ritmi sostenuti, e sta ai paesi che diciamo non hanno squilibri come quelli americani in termini di basso risparmio, dare impulso maggiore alla loro domanda interna per crescere. Ricordiamoci però un aspetto, che è quello del meccanismo delle pompe d'acqua che esisteva una volta nelle campagne, quando uno dava diciamo una spinta iniziale, poi l'acqua cominciava a fluire e non smetteva. Ecco, questo è il meccanismo della politica economica: si dà il là, si fa ripartire il sistema, e poi il sistema riacquista via via fiducia e funziona da solo. Quindi non è vero che questa riduzione dei tassi è una droga, questa spesa pubblica è una droga tolta la quale tutto si risiede, perché i sistemi economici sono sistemi fondati sullo sviluppo, ognuno di noi cerca di migliorare la propria condizione, le imprese vogliono allargare i mercati, fare più fatturato, migliorando i prodotti, soddisfando meglio i clienti, le famiglie, i consumatori, i lavoratori cercano di poter avere un benessere maggiore, fare viaggi nuovi, acquistare. Per cui tu dici, non è che una volta o quando verranno meno i tassi bassi, le garanzie delle banche centrali, questi prestiti continui, leverai, diciamo, come in certi sport dopati, leverai il motivo di questa ripresa. Se il meccanismo virtuoso si è messo in moto, continuerà a muoversi, l'importante è farlo partire. Per quello che riguarda poi il tuo commento sulla gravità di questa crisi e la sua durata, siccome anche noi, come dati statistici, in questi mesi abbiamo raccontato i dati peggiori dal 46, peggiori da quando esiste la serie statistica, non so, quest'anno il commercio mondiale dovrebbe crollare del 9%, mai successo da quando esiste l'indicatore, dalla seconda guerra mondiale, A me viene in mente di non confondere quella che è la temperatura che ti dà il termometro su una febbre con la durata della febbre. Abbiamo raggiunto una temperatura altissima, come se non avesse avuto 42-41 gradi di febbre. Per fortuna, se tutto va bene, grazie anche agli antibiotici, alle medicine prese proprio perché la febbre è risultata così alta, magari durerà di meno, non si rischia appunto di entrare in conseguenze irreversibili e peggiori. Ti convince come esempio? Sì, assolutamente, soprattutto quando hai detto che perché a causa di questa febbre alta siamo stati messi in terapia intensiva, ecco. Poi una volta che il paziente guarisce, si smette la terapia intensiva, non è perché questo il paziente muore. No, cioè la terapia intensiva finisce, certo, proprio quando il paziente si è ristabilito. E quindi questa idea del fatto che le politiche economiche siano delle droghe, sicuramente sono le droghe, esattamente come sono una droga le medicinali, certo. E quindi in questo senso funzionano nel ristabilire un corretto funzionamento dell'organo. Considero ottimista la tua affermazione di poco fa, meno 9% ci metterei la firma. Ah, dici sul commercio mondiale? Vabbè. Ma insomma, è un ottimismo così della volontà, un meno 9%. E invece c'è un altro tema che non possiamo affrontare oggi, intanto vediamo i prossimi dati con pazienza sempre, che è il tema delle cause di questa malattia, visto che usiamo l'esempio del paziente con la febbre altissima che viene salvato ed esce dal decorso prima del tempo. Io non vedo in questo momento un mondo, soprattutto in America e nel capitalismo anglosassone, dove siano cambiate radicalmente le regole e dove siano cambiati radicalmente i controllori, cioè in modo che questa malattia tu non te la debba riprendere più. Ma questo ci porterebbe a ragionare su come evitare che fra 5 anni o 10 anni, con tassi bassi e liquidità, non ci si ritrovi di nuovo in una situazione del genere. Mi manca la parte costruttiva, ecco, quello che quando il medico poi ti dice: bene, adesso che lei è fuori dalla malattia, ha capito che così, così, così non deve fare. Questa parte non l'ho ancora vista. Grazie per ora a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. L'altro tema che resta sul tappeto, sempre in virtù di questa crisi, riguarda anche la proposta avanzata dal ministro Sacconi, quindi la parte italiana, il ministro del lavoro, di una moratoria sui licenziamenti. Ne parleremo nella seconda ora del programma, prima di affrontare poi il tema degli obbligazionisti all'Italia. Adesso parliamo invece di borsa, perché se le prospettive, appunto, da oggi la presidente di Confindustria, ieri il ministro dell'economia, sembrano volgere, diciamo, al meglio, perlomeno che la parte peggiore sia passata, oggi la borsa ha conosciuto una prima seduta di realizzi, di vent dopo i rialzi di queste settimane. Speriamo sia così. Meno 4,2% l'S&P MIB, meno 3,9% il MIBTEL, meno 4% Francoforte e anche Parigi, meno 2,6% Londra, l'America meno 2,90% sul Dow Jones e meno 3,3% sul Nasdaq, con un euro che scende a quota 1,29 sul dollaro. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, il commento di borsa è anche l'ultima delle grandi banche americane ad aver pubblicato oggi dati, mi riferisco a Bank of America, che ha avuto anche lei utili migliori delle attese. Allora, la borsa, male tutti i mercati, come avete sentito. E nonostante i dati di Bank of America, bene invece un titolo, visto che ce lo richiedete, ve lo ricordiamo di nuovo. C'è un'operazione oggi che è l'operazione Oracle, un'operazione da un valore di 7 miliardi e mezzo quasi di dollari, 7 miliardi e 400. Oracle ha lanciato un'offerta a 9,50 per azione per rilevare Sun Microsystems, che è uno dei, ripeto, colossi della Silicon Valley. Ha sostanzialmente un giro d'affari di 14 miliardi. Il titolo Sun Microsystems è volato in borsa. Sun Microsystems fa software e semiconduttori, e è volato in borsa e è arrivato a guadagnare il 35%. Questa notizia però, mi sembra di poter dire, non è servita a migliorare gli indici complessivi, anzi anche il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici americani, perde parecchio, il 3,30%. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Correzione, chiamala se vuoi correzione, oppure c'è dell'altro? Beh, gli operatori sperano di poterla chiamare così con il senno di poi, insomma i rialzi che si erano visti nei giorni scorsi hanno consigliato molti investitori a prendere beneficio, quindi a poter mettere un po' da parte i primi realizzi. Era una cosa piuttosto attesa, nonostante appunto tu ricordavi alcuni segnali di ottimismo giunti dalle istituzioni o da uomini e da operatori appunto del mondo industriale. Era una correzione attesa, una correzione che ha colpito soprattutto alcuni settori, banche, assicurazioni, le auto e le materie prime, vista la forte correzione del petrolio che il cui contratto maggio a New York perde praticamente $4 a New York in questo momento, e tratta a $46,37 al barile. Io anch'io spero che sia una correzione, poi vedremo. Vedo molti ascoltatori che scrivono: attenzione, il peggio deve ancora tornare, cioè anzi questo è solo un rialzo apparente, torneranno a calare i mercati, e poi dite che i gufi siamo noi. Vi farei vedere alcuni messaggi, spero che vi sbagliate. Se invece avrete ragione, ve lo riconosceremo come sempre e lo racconteremo in diretta. Andiamo avanti con la cronaca della giornata, perché poi tra i titoli perde parecchio ST Microelectronics, meno 8,5. Ora io non capisco una cosa: c'è un'operazione da 7 miliardi e mezzo di dollari in America con due società più o meno concorrenti di ST Microelectronics e il titolo perde l'8,4? Diciamo che effettivamente, come ricordavi tu, l'unico titolo a beneficiare in maniera significativa di questa operazione è stata l'azienda obiettivo, l'azienda target, cioè Sun Microsystem, mentre Oracle e la stessa IBM, che a lungo era stata in corsa per acquisire la società di software, invece perde circa il 2% sul listino. Diciamo che il settore tecnologico è stato scosso a sorpresa dalla notizia, ma non sul listino, e ST come anche Infineon hanno perso in maniera decisa sui listini europei. Altri titoli: il mondo Pirelli, come si chiama in gergo, ossia Pirelli Real Estate, oggi la trimestrale, domani Pirelli, vedo che il titolo ha perso il 4,1%. Novità, sappiamo tutti che se n'è andato pure i negri con 12 milioni di euro di buonuscita tra una cosa e l'altra, ma novità dalla trimestrale e attese per domani? No, la trimestrale Pirelli Re dovrebbe essere comunicata questa sera, perché oggi c'era il CDA appunto sulla trimestrale, domani ci sarà la trimestrale invece della controllante, cioè di Pirelli. Pirelli Re oggi ha perso l'8,5%, Pirelli ha perso oltre il 4%, domani ci sarà anche l'assemblea degli azionisti Pirelli. Ricordiamo, è un momento di tensione per il gruppo Pirelli, il gruppo della Bicocca, che fa capo a Marco Tronchetti Provera. C'è in ballo una ricapitalizzazione importante di Pirelli Re, un aumento di capitale da 400 milioni, ma anche nella parte alta, diciamo così, della filiera di controllo, la stessa Canfin, che è la holding che controlla Pirelli, ha necessità, secondo le indiscrezioni, di nuove iniezioni di capitale di 50 o 100 milioni di euro. Oggi ha perso il 4,5%, in attesa di questi appuntamenti che saranno un po' la verifica dello stato di salute delle controllate e dell'intero gruppo. Il mercato è rimasto molto cauto sull'acquistare il titolo, e quindi hanno prevalso le vendite. Oggi è stato pesante un po' il bilancio per tutti i titoli di questa galassia. Ancora sui titoli, devo dire che i cali oggi principali sono arrivati comunque dal mondo bancario in generale, oltre a ST Microelectronics e Bulgari, meno 7,3%, Bulgari molto era cresciuta però nelle ultime sedute, Monte dei Paschi ha perso il 6,3%, Telecom il 5,90%, Mediolanum il 5,5%, Tenaris il 5%, come Intesa San Paolo, e anche Unicredito ha perso il 5%, Mediobanca meno 4,90% come Prismian, il 4,70% l'ha perso Geox, il 4,4% Enel, e Ansaldo STS il 4,2%, il calo di UbiBanca e Pirelli. Ancora perde il 3,7 A2A, il 3,6 Mondadori, il 3,6 anche la Popolare di Milano, Generali meno 3,4, Fondiaria meno 3,2, Atlantia meno 3,2 pure, Alleanza meno 3% come Eni e Finmeccanica. Rapidamente in una battuta i titoli bancari. Sì, i bancari diciamo che sono stati colpiti più di altri dai realizzi di oggi, non è servito molto il bilancio, la trimestrale sopra le attese, come tu ricordavi, di Bank of America, l'ultima delle grandi banche a comunicare la trimestrale, e appunto in questo momento non è servito, e sia Citigroup che Bank of America perdono in doppia cifra a Wall Street, e in una metà seduta già sottotono per quanto riguarda i bancari, l'apertura di Wall Street è stata decisiva, tant'è vero che un po' su tutti i finanziari si è preso beneficio, ad eccezione però di Banco Popolare e di Unipol. Unipol, che già l'avevamo visto nelle ultime sedute, molto tonica, ben acquistata anche per l'ottimismo espresso dall'amministratore delegato Salvatori la scorsa settimana sulla trimestrale. E hai ragione, infatti Banco Popolare più 1,6 e Unipol più 0,3 sono i titoli migliori, con CIR più 0,6, SNAM più mezzo punto percentuale di rialzo. In assoluto le Beghelli, il miglior titolo, più 18% oggi. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, e visto che, come ricordavamo, con la giornata di oggi si è conclusa anche l'attesa sequenza di bilanci trimestrali, i primi tre mesi dell'anno, dei principali gruppi bancari americani, quelli che sono rimasti, perché come nel caso di Merrill Lynch se l'è comprata Bank of America, oggi con Bank of America che è tornata inutile per 4 miliardi e 200 milioni di dollari è possibile fare un primo così riepilogo di come è andato questo inizio 2009 per i colossi bancari, magari con i piedi d'argilla ma sempre colossi bancari americani. Con la trimestrale e il ritorno all'utile di Bank of America si completa la settimana di passione dei big della finanza statunitense. Dopo la pioggia di miliardi in aiuti pubblici arrivata da Washington, le banche erano chiamate a dare un segnale di inversione di rotta e nel complesso i riscontri sono stati positivi. Il malato più grave, ossia il colosso Citigroup, è riuscito a sorprendere gli analisti, con utili per 1,6 miliardi di dollari e un bilancio in nero dopo 5 trimestri consecutivi di perdite. Una vera e propria resurrezione per quella che, dopo essere stata sepolta sotto 80 miliardi di perdite, era stata ribattezzata la Zombie Bank. Utili a 9 zeri e risultati migliori delle previsioni sono arrivati anche da Goldman Sachs e JP Morgan. La prima ha archiviato utili per 1,8 miliardi di dollari. La seconda ha fatto un poco meglio, con guadagni per 2,1 miliardi. Sia l'una che l'altra hanno inoltre iniziato a restituire i soldi ricevuti in prestito dal Tesoro, con l'obiettivo di svincolarsi al più presto possibile dall'ingombrante presenza pubblica. Il quadro si completa con i 3 miliardi di dollari di profitti annunciati dalla banca Wells Fargo. I bilanci sono dunque tornati a sorprendere in positivo, ma bisogna aggiungere che parte del merito va attribuito alle nuove regole contabili approvate dagli Stati Uniti a inizio aprile. In pratica si permette alle banche di attribuire un prezzo a titoli che non si riescono più a vendere sul mercato e che dunque teoricamente dovrebbero valere zero. Una modifica che secondo gli analisti è in grado di migliorare i conti di almeno il 20%. Vedremo poi quanto questo abbellimento dei conti, questa nuova regola contabile che permette di migliorare l'andamento dei conti di almeno il 20% sarà ed è alla base di questi conti migliori. Li salutiamo comunque con favore, perché nessuno poteva immaginare che queste banche americane iniziassero il 2009 già tornando inutile. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come promesso, dopo esserci occupati da un lato delle trimestrali americane, avete appena sentito Bank of America che è tornata inutile, 4 miliardi e 200 milioni, anche di un'operazione obiettivamente importante come quella che ha visto Oracle negli Stati Uniti lanciare un'offerta da 7 miliardi e 400 milioni per comprarsi Sun Microsystem pagandola $9.50 per azione. Il titolo è arrivato a guadagnare, il titolo Sun Microsystem, che fa semiconduttori e software, è arrivato a guadagnare in borsa oltre il 35%. Veniamo agli altri temi di questa giornata. Nel nostro approfondimento, lo ricordo, è stato dedicato dopo le dichiarazioni di ieri del ministro Tremonti, oggi anche a quelle del presidente Confindustria Marcegaglia, che ha detto il peggio è passato. Da luglio ci attendiamo di vedere, sulla base dei dati del Centro Studi di Confindustria, qualche segnale di ripresa, l'inversione di tendenza, e abbiamo avuto il direttore del Centro Studi di Confindustria a spiegarci dove e come si stanno registrando a livello mondiale questi segnali. La Presidente Confindustria è anche intervenuta in merito alla proposta di una moratoria sui licenziamenti avanzata dal Ministro al Lavoro Maurizio Sacconi. Emma Marcegaglia ha detto le imprese e gli imprenditori italiani stanno dimostrando nei fatti di essere vicine ai propri lavoratori. Sulla proposta del ministro Sacconi è intervenuto oggi anche il presidente della piccola industria di Confindustria, Giuseppe Morandini. Ascoltiamolo al microfono del nostro Andrea Viali. In sostanza ha suggerito: andiamo avanti comunque con la cassa integrazione. Noi come Confindustria abbiamo sempre condiviso qualsiasi proposta che va nell'ottica di una flessibilità del rapporto di lavoro in un momento di crisi così grave, però prima di dare un giudizio vogliamo che questa proposta venga ben articolata. Di nostro, senz'altro, avremmo preferito parlare di un prolungamento dei tempi della cassa integrazione, compatibilmente col momento difficile, anche prevedendo e sperando in pronti segnali di inversione di tendenza. Credo che lo strumento della cassa integrazione sia lo strumento migliore per gestire questo passaggio. E ancora, sempre il presidente della piccola industria di Confindustria, Morandini, ha sottolineato, e l'ha fatto sempre al microfono del nostro Andrea Viali, come nonostante i Tremonti Bond, ricorderete quei prestiti del Tesoro alle banche che ne fanno richiesta, obbligazioni poi eventualmente convertibili, ma insomma, nonostante i Tremonti Bond, l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, quindi i rubinetti delle banche, resti al momento ancora problematico. Se devo essere sincero, mi aspettavo dei ritorni più immediati dalla definizione da parte del governo dei Tremonti Bond. Purtroppo io giro tanto il territorio e sento ancora gravi momenti di sofferenza da parte della piccola impresa nel momento in cui chiedono l'accesso al credito. Noi solleciteremo ancora l'ABI, ancora gli istituti bancari, a intraprendere quel grande percorso di trasparenza lungo il quale i Tremonti Bond devono scendere alle piccole imprese. Ancora, sempre per chi si fosse appena messo in collegamento, la borsa, l'abbiamo detto prima, seduta pesantemente negativa dopo 6 settimane in cui in media il mercato era sempre cresciuto, meno 4,2% l'S&P MIB, meno 3,90% il MIBTEL, meno 4% sia Parigi che Francoforte, meno 2,5% Londra, l'America perde il 2,80%. Con bancari, ma non solo, sotto pressione, ST Microelectronics meno 8,5, Bulgari meno 7,5, Monte dei Paschi meno 6,30, Telecom meno 5,90, Mediolanum meno 5,5%. Ancora sulla cronaca, ricordo che è partito questa mattina per il suo terzo viaggio in un mese verso gli Stati Uniti il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne. L'obiettivo è chiaramente proseguire i colloqui per definire tutti i vari tasselli dell'alleanza con Chrysler. La scadenza, anche qui lo ricordo, è il 30 aprile, scadenza fissata dall'amministrazione Obama, e oltre che ai dettagli dell'accordo vero e proprio tra Fiat e Chrysler, restano ancora da chiudere gli altri aspetti, per esempio l'accordo con i sindacati della casa americana e con il governo americano. Nel frattempo Finmeccanica si è vista ordinare dagli Stati Uniti 7 aerei da trasporto tattico C-27J, anche in questo caso il valore è $203 milioni, il contratto complessivamente vale o riguarda 78 velivoli. Alcuni di voi poi ci hanno chiesto notizie sulla su quanto riportava oggi sulle 24 ore, lo trovate ancora in edicola, ma insomma brevemente lo abbiamo già ricordato in apertura del programma. Il Sole 24 ore di oggi riporta una cifra pari a 5 miliardi e 300 milioni di euro, che è quello che la Guardia di Finanza ha scovato nel 2008 come imponibili non dichiarati all'estero, relativamente ad attività all'estero, una cifra che è tre volte quella del 2007 e che è il risultato di un insieme di trucchi, chiamiamoli così, ossia finte residenze in paesi a fiscalità agevolata, società estrovestite, anche se sono per tutto operative in Italia. E complessivamente negli ultimi tre anni, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il bottino scoperto dalle Fiamme Gialle supera i 10 miliardi di euro. Le informazioni per chi è in viaggio e poi l'Alitalia, i rimborsi per gli obbligazionisti. Oggi è andata, non ha raggiunto il quorum l'assemblea convocata in primo luogo da Anima SGR degli obbligazionisti all'Italia, perché il Ministero del Tesoro non si è presentato e da solo ha il 62% delle obbligazioni. Tutto, complessivamente oggi i soggetti presenti arrivavano tra l'8 e il 10% del totale delle obbligazioni, serve invece almeno il 20%. Ultimo tema di questa puntata, gli obbligazionisti all'Italia. Stiamo parlando di circa 40.000 investitori che hanno sottoscritto i famosi Mengozzi Bond. I Mengozzi Bond erano quelle obbligazioni lanciate dall'allora amministratore delegato di Alitalia, ossia 270 milioni di euro. In mattinata a Roma si è tenuta l'assemblea di questi obbligazionisti, non si è raggiunta la soglia, il quorum per renderla valida. In primo luogo perché il Tesoro, che ha il 62% delle obbligazioni della vecchia Alitalia, non si è presentato e complessivamente appunto non si arrivava tra l'8 e il 10% del totale. Il nocciolo della questione, cioè il centro delle proteste di chi oggi si è riunito, riguarda la norma contenuta nel disegno di legge incentivi, che è già legge dallo scorso 12 aprile e che prevede in sostanza un rimborso del 32% rispetto al valore dell'obbligazione tramite BOT, titoli di Stato, e che sarà possibile riscuotere fino al 2012, con un tetto massimo però di 100.000 euro, indipendentemente da quante obbligazioni uno abbia sottoscritto. E qui già c'è un altro aspetto, un altro problema. Comunque siamo in collegamento con Alberto Foà, che è amministratore delegato di Anima SGR, la società di gestione di fondi, che è uno dei principali promotori di questa assemblea odierna, che ha tra l'altro oggi, se ho ben capito, proposto un'azione legale contro il Tesoro. Andiamo con ordine. Buonasera, dottor Foà. Buonasera. Dunque, il Tesoro non si è presentato e voi rappresentavate alla fine, se ho ben capito, il 10% degli obbligazionisti come valore complessivo delle obbligazioni in portafoglio. Ve lo aspettavate? Veramente noi ci aspettavamo che il Tesoro si sarebbe presentato, se non altro, a illustrare agli obbligazionisti l'offerta fatta mediante l'articolo contenuto nel decreto incentivi modificato poi in legge il 12 aprile di quest'anno. Quindi sorpresa anche per voi, ma anche la vostra reazione non è stata da poco. Ho ben capito, avete proposto un'azione contro il Tesoro, se è così, intanto se ci può confermare di che tipo? Diciamo, l'Assemblea non si è potuta costituire con il quorum necessario a prendere delibere efficaci per tutti gli obbligazionisti. Questo non toglie che gli obbligazionisti presenti possono sempre concertare delle azioni comuni e suddividere fra di loro le spese per eventuali azioni legali. Quindi diventa, diciamo, una riunione di obbligazionisti e non più l'assemblea degli obbligazionisti. Per quanto riguarda le iniziative che noi abbiamo intrapreso e che intraprenderemo, abbiamo già mandato un esposto alla Consob contestando due aspetti contenute nel decreto legge, poi legge del 12 aprile di quest'anno, che sono sostanzialmente il primo, il fatto che l'offerta del Tesoro è sostanzialmente un'offerta pubblica, perché propone agli obbligazionisti di cambiare le proprie obbligazioni d'Italia in titoli di Stato senza cedola rimborsabili nel 2012, e come qualsiasi offerta pubblica, anche questa offerta pubblica avrebbe dovuto essere preceduta in via logica, in via temporale, da un prospetto. Siccome nella legge si dice che l'obbligazionista che accetta l'offerta implicitamente rinuncia a ogni azione di tipo legale, prima di decidere se rinunciare a un'azione di tipo legale, è evidente che l'obbligazionista deve poter avere con chiarezza e trasparenza quello che accetta e quello che lascia. E quindi abbiamo mandato un esposto alla Consob chiedendo di sospendere in via cautelativa questa offerta pubblica, che abbastanza stranamente è in deroga al testo unico della finanza, è arrivata senza prospetto. La seconda cosa che ci ha lasciato perplessi è la limitazione a 100.000 euro che viola la parità, la limitazione a 100.000 euro, mi scusi, del rimborso massimo, che viola il principio della parità di trattamento tra gli obbligazionisti, in quanto se ipotizziamo che il rimborso sia più o meno nell'ordine del 30%, chi ha 300.000 euro verrebbe rimborsato per l'appunto per circa il 30%, mentre chi ha ad esempio 600.000 euro verrebbe rimborsato per il 15%, o chi ha 1.000.000 di euro verrebbe rimborsato al massimo per il 10%, e in flagrante violazione del principio per cui tutti gli obbligazionisti devono essere trattati nello stesso modo. Abbiamo anche sollecitato l'associazione di categoria dei gestori a intervenire, ma finora non sono intervenuti, e questo è un principio, come si può dire, che questo decreto legge, questa legge pone un precedente abbastanza grave, in quanto, per di più, in quanto fatto ope legis, in quanto domani, se fallisse un'altra società, potrebbe decidere di rimborsare gli obbligazionisti, o si potrebbe decidere di rimborsare gli obbligazionisti fino a un tetto massimo, penalizzando poi i grandi investitori, che tipicamente sono i fondi pensione o i fondi di investimento, e che altrettanto tipicamente sono poi non grandi speculatori, ma l'espressione del patrimonio di pertinenza di una pletora di piccoli azionisti. Quindi il piccolo azionista che avesse investito direttamente verrebbe rimborsato nella misura del 30%, mentre il piccolo azionista che avesse investito tramite un organismo di investimento collettivo verrebbe fortemente penalizzato. Quindi, dottor Foà, se ho ben capito, da un lato voi contestate l'assenza di un prospetto, come si chiama in gergo, prospetto informativo, insomma, se io devo aderire a un'offerta in cui appunto mi viene rimborsato il 30% di quanto io ho prestato allo Stato, all'Italia, l'obbligazione è un prestito, che con l'obbligo di essere restituito, quindi in questo caso mi verrebbe dato al massimo il 30% fino a un tetto di 100.000 euro. Quindi voi contestate in primo luogo l'assenza di un prospetto che permetta poi, da un punto di vista anche giuridico, di dire va bene, accetto l'accordo e quindi rinuncio a qualunque causa legale futura, devo però avere un prospetto in questo termine. E poi nel merito, cioè nei soldi, sul rimborso, voi dite attenzione, porre un tetto di rimborso comunque massimo di 100.000 euro significa che se io ho un fondo, sono un fondo pensione, un fondo comune di investimento, e ho comprato 1 milione, 2 milioni, poniamo 2 milioni di obbligazioni in Italia, al massimo vengo rimborsato per il 5%, perché il 100.000 euro come totale. Questo crea un discrimine tra chi ha investito 50.000 euro e chi ha investito 1 milione di euro, e soprattutto danneggia, e questa è la cosa più paradossale, anche il piccolo risparmiatore, perché se il piccolo risparmiatore ha comprato le obbligazioni all'Italia direttamente, può ottenere il 30% fino a 100.000 euro. Se le ha comprate tramite un fondo che magari ne aveva appunto 1 milione di euro, si ritrova ad avere il 10%. Che tipo a questo punto di passaggi ulteriori intendete fare? Attendete una risposta dalla Consob? Beh, noi appunto abbiamo mandato una risposta alla Consob e ci attendevamo che la Consob, ci attendevamo non che la Consob ci avesse risposto direttamente, un'azione della Consob, o quantomeno il fatto che la Consob spiegasse perché ritenga di non dover intervenire. Che tempi vi siete dati? Ma tenga conto che siccome la legge converte per l'appunto in legge un decreto legge, l'offerta è già efficace dal 12 di aprile, cioè da 8 giorni, quindi qualsiasi offerta pubblica di acquisto, di vendita, di scambio che si faccia in Italia non può iniziare senza la pubblicazione di un prospetto, mentre qui invece l'offerta pubblica è già bella che è iniziata da 8 giorni. e del post... lei volesse fare un'offerta pubblica di vendita delle azioni della sua società, non potrebbe iniziare se non previa approvazione da parte della Consob del prospetto. Consob che deve verificare, per l'appunto, che il prospetto contenga tutte le informazioni in modo chiaro e trasparente che per permettere al mercato e agli investitori di prendere in modo corretto la propria decisione. Allora, in bocca al lupo, perché insomma noi della vicenda all'Italia abbiamo parlato tantissimo, è chiaro che c'è una società che nella sua bad company è messa in difficoltà, però è anche vero che gli azionisti, lo diciamo spesso, l'abbiamo detto anche nel caso Parmalat, nel caso Cirio, gli azionisti partecipano comprando il capitale al rischio, quindi capitale di rischio, gli obbligazionisti oggettivamente danno un prestito obbligazionario con l'obbligo che venga restituito, e quindi è una categoria molto diversa. Tra l'altro questi sono ancora, come ricordavamo, i famosi Mengozzi bond, quell'obbligazione in mano a, ricordo ancora, circa 40.000 persone, pari a 270 milioni di euro. Grazie e in bocca al lupo all'amministratore delegato di Anima SGR Alberto Foà. Posso aggiungere qualcosa all'ultimissimo? Certo, prego, prego. Ecco, no, questo è un aspetto della vicenda. Il secondo aspetto è che, per l'appunto, l'Alitalia è sempre stata gestita, ancorché società di carattere privato, con delle azioni quotate, delle obbligazioni quotate, che ha fatto ricorso a strumenti di carattere privatistico come emissioni obbligazionarie, aumenti di capitale presso i piccoli risparmiatori, alla fine però è sempre stata gestita e diretta e coordinata come strategia dallo Stato, che ne ha deciso il livello di occupazione, ne ha deciso alleanze, eccetera. Quindi l'azione che noi vorremmo intraprendere di tipo legale è contro il Tesoro e si basa sull'articolo 2497 del Codice Civile, che per l'appunto dice che un ente, una società che coordini e diriga una società partecipata nell'interesse non della platea di tutti i soci o dei creditori, ma nell'interesse proprio, ne risponde poi dei danni. Cioè voi dite, siccome l'Alitalia di fatto, pur essendo quotata in parte, ma insomma l'ha sempre gestita il Ministero del Tesoro, e su questo obiettivamente, al di là dei governi che si sono succeduti, non c'è nessun dubbio, il Ministero delegati ha deciso il Tesoro, le ricompense ha deciso il Tesoro, la privatizzazione ha deciso il Tesoro, il governo Prodi e il governo Berlusconi in pari modo, per cui voi la causa risarcitoria la fate contro il Tesoro, non contro l'Italia, perché c'è l'articolo del Codice Civile che prevede appunto questo. Ho capito bene? Assolutamente, causa che deve essere intrapresa per quanto riguarda i creditori dal commissario straordinario professor Fantozzi. Grazie, e allora di nuovo a questo punto in bocca al lupo ad Alberto Foà, amministratore delegato di Anima SGR. Grazie. E siamo in conclusione del programma. Ha ragione chi scrive, ma ormai questa è storia, è passato, che nell'offerta Air France era anche previsto a suo tempo il rimborso dell'80% circa del valore nominale dell'obbligazione all'Italia. Ma ripeto, ormai questa è storia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.